Un saluto agli ascoltatori di Radio Città Fujiko, sono Giuliano Carcuro e oggi sono in compagnia di Claudine Tissier e Fabio Campo. Claudine è presidente di Namaste Onore a Te, mentre Fabio è un volontario. E Namaste è un'organizzazione di volontariato appunto che si occupa di sostegno a distanze e cooperazione allo sviluppo, per garantire ai bambini e ai ragazzi in condizioni di povertà il diritto allo studio e alla salute. Claudine, so che nell'ultimo periodo avete partecipato a una missione in Africa, vi va di raccontarci un po' l'esperienza? Sì, certo. Noi da anni operiamo nel sud dell'India e poi abbiamo fatto questa missione in Congo, in Repubblica Democratica del Congo, perché abbiamo voglia di diversificarci, insomma, di aiutare i bambini in altri paesi, di aprirsi a altre realtà. E quindi siamo andati a Kinshasa con un'altra associazione, Nova, che ha già progetti appunto a Kinshasa, e abbiamo visitato diversi orfanotrofi e abbiamo visto una realtà che è veramente difficile. Anzi, i bambini vivono in un modo veramente povero, ci sono tantissime difficoltà e la famiglia non lo vuole, è abbandonato, e quindi c'è veramente tanto da fare. È stato un viaggio, una missione molto molto interessante e molto forte, e quindi ci stiamo organizzando e pensiamo di un po' di tempo riuscire a proporre bambini congolesi in sostegno a distanza. La Repubblica Democratica del Congo è un paese piuttosto caotico, un paese enorme che ha tante ricchezze, ma tutte le ricchezze sono rubate dalle grandi firme o da altri paesi, e quindi la povertà è veramente impressionante, insomma. Aggiungo, sia un paese davvero complicato, in cui anche il rispetto delle regole è un po' difficile. Per questo la nostra missione, abbiamo verificato appunto per il sostegno a distanza la possibilità di poter intervenire con la trasparenza a cui siamo abituati, eccetera, per esempio nell'invio dei fondi, delle strutture. Noi abbiamo incontrato nel paese alcune autorità sia locali e anche le autorità dell'ambasciata italiana, insomma le misure di sicurezza sono estreme. Noi abbiamo cercato appunto di verificare tutti questi elementi, abbiamo trovato alcuni orfanotrofi che ci possono garantire appunto una trasmissione, come dire, delle notizie, degli aggiornamenti sui bambini, la trasparenza nell'invio dei fondi, perché siamo abituati a operare in questi modi. C'è un modo per sostenere le vostre attività? Beh sì, il sostegno a distanza è uno dei modi classici, insomma. Tra l'altro nella Repubblica Democratica del Congo le scuole, non esiste un sistema di scuole di scuola pubblica, praticamente tutte le scuole dalle elementari o dalle scuole dell'infanzia sono private e sono costose. E quindi il sostegno a distanza di questi bambini coprirebbe in larga parte le spese scolastiche, e poi con altri contributi, eventuali donazioni aggiuntive, si possono appunto aiutare ancora di più questi orfanotrofi. Un altro modo di aiutarci, che è molto semplice, è il 5 per 1000. Per noi il 5 per 1000 è prezioso, quindi questo è facile da fare. Basta pensare a noi, pensare ai bambini indiani, pensare ai bambini del Congo che hanno tantissimo bisogno di essere aiutati, che sono carinissimi, affettuosi, sono stati veramente degli incontri meravigliosi. Benissimo, benissimo. Claudine e Fabio, è stato un piacere avervi con noi. Grazie. Vi ringraziamo, arrivederci. Arrivederci. Ciao.